21.07, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione. Anche per oggi, 11 luglio del 2018. www.ondarossa.info è il nostro sito internet, utilissimo anche per connettersi via streaming. Il telefono è 06 49 17 50. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito comparirà la playlist e il podcast di questa sera, cosa che accadrà puntualmente anche sulla personale pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder. Si saluta Alessandra qui da Roma, Luciano anche qui da Roma, Maya dall'Argentina, Like Awake, valente musicista con il quale inizieremo questa trasmissione, sempre qui da Roma, il medico della peste, Massimo Orders Mascheroni da Milano. Ancora da lontano, esattamente da Mexico City, Carlos Silva. Dalla Sardegna, Nicola Locci, Raffaele Pezzella, fedelissimo e utilissimo in quel di Napoli. Maria Maddalena, sempre da queste parti. E noi si va ad iniziare ordunque con l'ultima parte della lunghissima suite di Like Awake, intitolata Crawling Through the Abyss of Pain Symphonic Noise. Dura circa un'ora, abbiamo estrapolato due sezioni le scorse settimane e concludiamo questa sera andandoci ad ascoltare gli ultimi 10 minuti proprio dell'opera stessa. Like Awake, che salutiamo di nuovo. E finisce così improvvisamente, dopo 70 minuti e 8 secondi, questa Crawling Through the Abyss of Pain, Symphonic Noise di Like Awake, ultimo lavoro, un lavoro intenso. Una traccia lunghissima, una vera e propria suite che ha la, come dire, il vantaggio, e quindi questa è un'abilità, è un'intuizione di Stefano Di Serio, di alternare momenti emozionali anche diversi tra di loro, quindi la siderale Dark Ambient classica di Like Awake ha momenti più visionari, altri più epici, qualche, forse qualche cavatina nel prog, insomma una traccia che poi alla fin fine coinvolge e prende. La prossima settimana ci ascolteremo anche quello che sta andando sotto la mia voce, ossia la cover di Set the Controls for the Heart of the Sun, naturalmente dei Pink Floyd. Dunque un saluto a Stefano Di Serio, e abbiamo parlato di dell'essere visionari, e questi Ghost of Breslau, un artista polacco, non è sicuramente da meno di Like Awake, anzi forse è proprio il lato che è più in evidenza in questo lavoro. Leggo qui del 2007, ossia And Show the Spring Come. Sono 13 tracce prive di titoli, ci ascolteremo l'ottava e la tredicesima. Die Banditen. Wo sind die Banditen? Wo sind die Banditen? Wo sind die Banditen? Wo sind die Banditen? Thank you. Indubbiamente visionario e spiazzante questo stralcio dei Ghost da parte di Gosto Breslau da questo And Should the Spring Come, artista polacco dai contorni dalle generalità misteriose ma che proviene da Wrocław, questo sicuramente. Questo lo possiamo sicuramente dire. Andiamo oltre, 21 e 29. Questa ottima collaborazione tra i russi Roitov e Peter Anderson, ossia Lina Baby Doll, al secolo Deutsch Nepal. Si chiama It in the Dust, uno splendido lavoro che esce per l'etichetta proprio di Deutsch Nepal, la Entertech Music. Questo è Alcology, già comparso nell'omonimo album, ma qui in versione remixata, Methanol Rework. Un saluto alla Sicilia di Antonella. Yeah. Una splendida traccia andava a chiudere Eating the Dust, uno dei dischi direi più belli di questo 2018. Un disco che nasce dalla fattiva e ottima collaborazione tra questo progetto russo dal nome Roitov insieme a Deutsch Nepal di Peter Anderson e Lina Babydoll, che presta la voce e scrive le liriche sopra queste fantastiche composizioni di Roitov. Questa era Alcology in Manhattan All Rework, una traccia insolitamente, diciamo, elettronica e dinamica rispetto poi a quello che conosciamo di Deutsch Nepal, ma appunto lui in fondo presta la voce arricchendo ulteriormente le già belle note di questo disco. Un saluto di nuovo al medico della peste, che presto avremo anche nelle nostre scalette qui di prove tecniche di trasmissione. Noi si va avanti e torniamo in Italia. Di questi tempi parliamo di She Spread Sorrow di Alice Kundalini. Abbiamo ascoltato la scorsa settimana Midori, adesso facciamo il salto indietro. Arriviamo nel 2015 e andiamo un po' a conoscere invece quello che fu il primo lavoro di questa artista piemontese. Questo album si chiamava Room Spring, ovviamente tra Power Electronics, Death Ambient, una delle realtà più interessanti al femminile proprio della nostra penisola, e ci andiamo ad ascoltare il brano che lo va ad aprire, Spring of Regret. Thank you. E dunque nel 2015 iniziava l'avventura She Spreads Sorrow per Alice Kundalini. E che in passato abbiamo conosciuto anche come Dead Perfection, Deviated Sister TV, Allies Deviated, eccetera. Questo era Room Spring, dunque, del 2015, che abbandoniamo. E arriviamo alle compilation ideate e congegnate da Raffaele Pezzella, che risalutiamo. La scorsa settimana abbiamo iniziato a conoscere questo Electroacoustic Music in Latin America 17 Survey, una compilation dunque dell'anno scorso, che il buon Raffaele è riuscito a mettere insieme, unendo tanti artisti direi abbastanza sconosciuti, almeno al sottoscritto, artisti anche abbastanza variegati tra di loro. Questa sera ci ascoltiamo Susan Campos Fonseca con El Corazón de lo Existe e poi Santiago Fradejas con The Prime Creator o The True Ghost. vero e proprio talento proveniente dal Costa Rica, si chiama Susan Campos Fonseca. La splendida voce di Elena Zalaia, soprano, e la collaborazione alla chitarra e al rumore di Thomas De Camino Beck. Tutte informazioni che puntualmente mi dà Raffaele Pezzella, che ringraziamo di nuovo. Una vera e propria intelligenza del Costa Rica, Susan Campos Fonseca. Andatevi un po' a studiare i vari siti che la riguardano. Intanto salutiamo Maya, che purtroppo dall'Argentina ha qualche problema di connessione, e quindi la salutiamo. Allora noi andiamo avanti. E come ho detto, lo facciamo con Santiago Fradejas, dal profilo molto più sperimentale, devo dire, rispetto all'approccio quasi gotico della traccia precedente. Ce l'ascoltiamo questo Santiago Fradejas.